בלו טיים. בלו טיים. בלו טיים. בלו טיים. 20:58 minuti primi. Buonasera a tutti. Blu Radio Veneto con voi questa sera, Maurizio e Gilles. Per questa nuova diretta, Maurizio. Sì, ciao. Buonasera Gil, buonasera ai nostri ascoltatori. Una nuova diretta, prima avremo una diretta telefonica, poi alle 22 come sempre, oggi è mercoledì, Rock Wave dal vivo chiaramente. Allora Maurizio, questa sera ci trasferiamo in quel del Piemonte, precisamente a Torino. A Torino. Andiamo un po' sul campo del hip hop. Sì, un genere nuovo per quel che mi riguarda. È la prima volta che intervistiamo degli artisti che fanno hip hop. Ti lancio una bella sfida. Esattamente. Veramente questa sera parleremo di tre bravissime ragazze che sono, il gruppo si chiama Le Gyal ed è composto da Wazzy, Clo e Ganja. E noi abbiamo al telefono la carissima Wazzy. Ciao Wazzy. Ciao, ciao a tutti, buonasera. Buonasera Wazzy. Allora, un gruppo, benvenute intanto. Grazie mille. Approfittiamo subito di salutare anche Chloe e Ganja che questa sera non potevano essere con noi al telefono. Sì, sì, le salutiamo, ci saranno ascoltando sicuramente, le salutiamo tutte e due, sì sì. Ecco, ragazzi, complimenti anche a voi perché veramente vi stiamo seguendo da un po' e veramente non grazie, grazie a nome di tutte e tre, siamo contente. Comunque volevamo ringraziarvi tanto anche per lo spazio, per l'intervista, per il passaggio di alcuni pezzi che poi sentiremo più avanti. Vi ringraziamo noi. Allora, entriamo un po' nel vivo, tanto per farvi conoscere un attimino. È un gruppo, Maurizio, giovane, sì, dai, molto 22 giovane. E 25 anni, ma non solo, è giovane anche dal punto di vista musicale. Correggimi Wazzy, voi siete sì. In pratica dal 2011. Sì, esattamente, cioè in teoria il primo lavoro è uscito nel 2012, il 16 gennaio 2012, ci siamo conosciute nel 2011 dove abbiamo cominciato a stendere, diciamo, le prime basi, i primi progetti, poi in realtà abbiamo debuttato sul web appunto col primo video che è uscito appunto nel 2012, il 16 gennaio, La mia medicina, che è il primo singolo del nostro primo EP dal titolo Maledetti sogni. Dobbiamo sottolineare una cosa, cari ascoltatori, le tre artiste della band hanno tre momenti diversi che poi si sono confluiti, non è così Wazzy? In che senso? Cioè tre momenti diversi, cioè tu ti occupi di una cosa, Clo di un'altra cosa. Sì, no, assolutamente, cioè, la cosa forte anche del nostro gruppo è che comunque ognuna delle tre ha una mansione diversa, perché per esempio io mi sono occupata in principio delle prime basi musicali, quindi delle strumentali, eccetera, magari qualche correzione a livello di suono, magari di idee all'interno delle canzoni. Poi abbiamo Federica che si occupa della parte grafica, quindi tutto ciò che riguarda magari la copertina del CD, i vari loghi se ne occupa lei, e mentre Claudia fa una parte un pochettino più consistente perché appunto riguarda i video. Lei si occupa di tutti quanti i video a livello di montaggio, alcune volte è stata partecipe anche delle riprese, cosa che comunque ovviamente lei sta studiando, quindi ha avuto anche l'opportunità di fare una specie di gavetta con i nostri video, però comunque ognuna delle tre sì, ha un ruolo specifico all'interno del gruppo, non solo a livello artistico ma anche, diciamo così, a livello tecnico. Quindi una componente perfetta, tre sì. Idee che si assemblano assieme per fare un discorso musicale poi. Sì, sì, sì, esattamente, sì, abbiamo avuto questa grande fortuna, chiamiamola così, tra virgolette, ognuna si occupa di una cosa fino poi a formare quello che è il prodotto finale. Senti sì. Wazzy, una curiosità, due EP praticamente usciti entrambi nel 2012, Maledetti sì. Sogni, che è il primo, a gennaio, esatto. E poi a novembre Le Gyal. Legale, sì, ah, sì, ecco, che è il titolo si secondo. Parlava prima con Maurizio, quindi Legale è il gruppo, Legale però è il Legale titolo. È il nome è un piccolo della, gioco, vero Wazzy, su Legale? Come? Un piccolo gioco che avete fatto sul legale. Sì, sì, sì, sì, no, ma infatti abbiamo sempre giocato tanto sul nostro nome e appunto abbiamo deciso di chiamare così l'EP perché somigliava tanto al nome, poi comunque Legale per noi è una parola, diciamo, una parola che può suscitare anche magari una curiosità ed è alla fine dei conti anche abbastanza impegnata, quindi abbiamo voluto un po' rispecchiare quello che facciamo, perché è un genere che tendiamo a far sembrare un pochettino molto impegnato, cioè dove magari non discutiamo delle solite cose, magari per dire, non siamo magari inclini a scrivere canzoni d'amore, ma ci impegniamo magari più su temi sociali e della vita quotidiana di tutti i giorni, quindi sono testi un pochettino, diciamo, appunto impegnati rispetto alla solita musica che, diciamo, si sente in giro, sì. Ecco, una cosa, Gil, giustamente parlavamo con Gil prima di iniziare la trasmissione, musicalmente avete una musicalità un po' particolare nel senso positivo del termine, secondo me. Non è la solita musica di chi fa hip hop, a mio parere. Ma sì, allora diciamo che abbiamo comunque varie influenze, perché comunque all'interno del gruppo non è una musica schematica, è una musica aperta, secondo me. Differenti. Sì, una noi musica aperta, non schematica. Abbiamo la fortuna di collaborare con una producer che è di Pisa, che si chiama Elisa Cacciatore, il nome d'arte Liz, che comunque lei ha, diciamo, attinenze molto magari sul dance andante, poi comunque ci mette sempre del suo, e anche a volte della drums and bass, quindi riusciamo, come dire, ci amalgamiamo tanto magari su cioè diciamo che non è proprio il suono classico hip hop. Esatto, è quello da sottolineare, non è uno schema, non è schematica la musica vostra, è un po' variata e questo è positivo, sì, secondo me, e per quello attira l'attenzione giusta, a mio parere. grazie. No, sì, comunque crediamo bene o male che avendo, diciamo così, più opinioni, teste diverse che si mettono insieme, riusciamo ad amalgamare tutte quante le cose alla perfezione, perché poi c'è comunque un'affinità alla fine dei conti, perché prima di essere colleghe, tra virgolette, siamo comunque amiche, quindi riusciamo sempre a far coincidere bene le cose e appunto siamo riuscite un po' a mischiare alcuni generi, poi dipende sempre da chi collaboriamo, dipende sempre magari da quello che comunque come base musicale ci viene proposta. Io magari propongo un suono, un altro producer ne propone un altro, e di conseguenza poi vengono fuori quello che sono i prodotti di adesso, alla fine, che sono, diciamo così, non sono proprio classici, ma sono con aspirazioni musicali comunque molto differenti, ecco, sì. Allora, Guazzi, io direi di iniziare a far ascoltare la vostra musica. Sì. Iniziamo da Maledetti Sogni, che poi lo riprendiamo, che volevo una curiosità di chiederti due EP in un anno, ma lo affronteremo dopo aver ascoltato Quanti Guai. Cosa racconta questa canzone, Guazzi? Ma allora, questa canzone in realtà è un tema molto molto semplice, ci è venuta praticamente un testo molto spontaneo, parla dell'amicizia. E di come comunque noi in questi anni, è un testo molto personale, e di come comunque noi in questi anni siamo riusciti a coltivarla, siamo arrivate comunque a definire questa parola, appunto l'amicizia, come una cosa molto grande, molto molto molto bella. Di conseguenza abbiamo scritto questa canzone, che è dedicata comunque a tutti i nostri amici, e abbiamo comunque sperato che nel momento in cui venisse ascoltata molte persone ci si potrebbero rispecchiare al suo interno. E quindi niente, parla dell'amicizia, sì. Bene, è una canzone che cantate assieme a Trilli. Esatto, Trilli, sì, che è una ragazza che abbiamo conosciuto, sempre nostra amica. E abbiamo appunto scoperto questo suo talento a livello vocale, ci è piaciuto da subito tantissimo e gli abbiamo chiesto appunto di collaborare con noi. Non ha esitato per nulla, è uscito il pezzo, siamo andati a registrarlo, abbiamo anche girato un video che è su YouTube e niente. Spero vi piaccia. Ci piace, sì, perché siamo qui proprio perché ci piace. Quindi bene, ascoltiamoci finalmente assieme Quanti Guai, Le Gyal. Vai. Quanti guai ancora, noi sempre insieme noi, una cosa sola, è come un respiro dentro l'anima, il calore che riempie ogni mia pagina, immagina. Quanti guai, sì. Questo è il canto libero di ogni pensiero mio più vivido, steso su di me, mi protegge senza troppi perché è la speranza di ogni giorno, lo sentirebbe pure un sordo. Sono le voci che ho dentro, che conosco e non confondo, e tutto ciò che trovo non ha confronto. Lontano o vicino non importa, ci diamo volontà e vita da capo piede di una corda, e mi date ogni forza, chi più si smorza, troverò sempre la tua parola, il fiato che mi consente. sola, la mano che non brucia, lo sguardo che dà luce, ma restiamo insieme, toccando l'inesistente, e lo rendiamo noi presente, la presenza dell'amore che abbiamo, noi di questo ci nutriamo e ma ne siamo sazi, e Dio per questo vi dico grazie, solo grazie. Sempre fatto, continuiamo ancora mentre consumiamo il mondo con un altro braccio. E dimmi tutto quanto, sai che puoi farlo, perché anche ogni tuo sclero sai che riesco a sopportarlo. È la forza dei ricordi che ti tiene in piedi, e sai che sono qui quando ad ogni cosa non ci credi. Per ogni volta che si sclera, per tutte le giornate spese, sono ancora tutta intera, ho riacquistato la mia fede. Adesso provo a scriverlo alla mia maniera, qual è la cosa che non cede, o si crede in noi, in tutto questo che ora siamo, e se voglio stare bene penso solo, dov'è che potremo? Notti allegre, notti nere, queste per ogni attimo, per voi che non mi fate mai cadere, che siete la cosa più bella che mai potessi avere. Quanti guai, quanti guai. La serata a bere vino, noi rapiti da un alieno, loro in botta col pallino. Se guarda male il verso è storto, lo rigiro, che casino. Sei branco ulula, la luna piena, mangiamo stelle e il resto lo lasciamo a voi per cena. Presti bene per la strada a cantare fino al mattino. Lui a loro in bocca, noi loro in botta, sempre vicino, fino a quando non saremo su strade diverse, lontani ma con le nostre anime connesse. Sempre subito pensa a quanto abbiamo vissuto su questo viaggio, un ricordo eterno come un tatuaggio, quindi con te partirò per andare oltre queste nuvole. Ora lo so, quanti guai, quanti guai ancora, e sempre insieme noi una cosa sola. Come un respiro dentro l'anima, il calore che riempie ogni mia pagina, immagina. Quanti guai ancora, e sempre insieme noi una cosa sola. Come un respiro dentro l'anima, il calore che riempie ogni mia pagina. Radio Veneto. SMS 346 23 20 033. Blue Time. Blue Time. Blue Time. Blue Time. Che Che dici, Maurizio? Cara Guazi, caro Gil, secondo me all'inizio assomigliava, ricordava lontanamente Manu Chao, una cosa molto positiva a Guazi, a mio parere. Poi le cose si sono allargate, ritorna una musica diversa, però è importante che non è una musica schematica, è varia in continuazione, e secondo me è una cosa positiva dal punto di vista dell'hip hop fatto da voi. Consapevoli. Poi comunque c'è stato un grande balzo, secondo me, secondo il mio parere personale, dal primo EP al secondo, anche a livello di strumentali. Siamo riusciti a crescere, comunque a dare il meglio sempre di più in tutte le canzoni che abbiamo fatto. Diciamo che stiamo ancora sperimentando altri tipi di suoni e comunque porteremo sempre avanti appunto questa evoluzione, alla fine fa parte proprio del gruppo. Però tu hai anche detto, avete detto praticamente, malgrado questo disco sia poco maturo, a noi piace sempre perché rimane nel nostro cuore. Grazie mille. Allora, Guazzi, io volevo ritornare un attimo su questa curiosità di due EP usciti entrambi nel 2012, gennaio e novembre si parlava, come mai non un album completo? Ma allora niente, praticamente abbiamo deciso, a parte che secondo noi fare già subito un album completo, cioè uscire con un album che ha molti più pezzi, era comunque a parte difficoltoso, perché in ogni caso noi ci siamo sempre, diciamo così, fatte in quattro per andare in studio, registrare, eccetera, fare i video, ed è una cosa che non sembra, ma comunque porta via tanto tempo. Niente, i tempi di attesa si stavano allungando, abbiamo deciso appunto, ma magari facciamo qualcosa di più corto, alcune canzoni per noi vecchie le abbiamo messe nel primo, altre le abbiamo tenute per il secondo, poi nel secondo se ne sono aggiunte altre, abbiamo deciso appunto di spezzare, diciamo, il lavoro, perché comunque ci sembrava più carino, ecco, anche magari suscitare un minimo di curiosità a livello di gruppo, visto che comunque eravamo appena uscite, e quindi, diciamo, spezzare il lavoro anche a livello di tempo, perché è stata una cosa impegnativa, appunto si stavano allungando i tempi, poi ci è sembrata anche comunque una mossa abbastanza studiata, cioè da lanciare sul mercato, diciamo così, per farci ascoltare, per farci conoscere, per poi uscire poco tempo dopo con altri lavori, magari fatti mille volte meglio, perché comunque ogni album, diciamo così, la carriera musicale comunque è sempre un percorso, e nei momenti in cui tu fai qualcosa la seconda volta lo rifai sempre comunque meglio. Quindi abbiamo deciso appunto di aspettare, di fare le cose più studiate, di completarlo con appunto il secondo EP che è legale. Sì. Ne farete due anche nel 2013 allora? Ma questo è da vedere, adesso vediamo, magari c'era anche l'intervista, che ne abbiamo già fatti due, magari fare un lavoro un pochettino più accurato e fare magari un album questa volta. Adesso comunque è tutto ancora in progetto, adesso ci stiamo movimentando già per fare canzoni nuove, una già l'abbiamo fatta, che però non è ancora sul web, ma la cantiamo praticamente sempre ad ogni live che facciamo, quindi la stiamo spingendo un pochettino adesso. I progetti nuovi già sono in cantiere, dobbiamo solamente avere il tempo, lo spazio per farli uscire. Certo. Comunque, come proprio lo stile rap, entrambi legati a temi più sociali che personali, no, Guazzi? Sì, diciamo che comunque affrontiamo tanto il sociale, ma affrontiamo anche tanto il lato personale. Nei nostri EP alla fine abbiamo sempre cercato di toccare molti più temi, cioè di non essere magari... diciamo che la nostra impronta è quella del sociale, però comunque all'interno di ogni album, di ogni progetto, si possono trovare comunque svariati temi, dal tema personale, magari anche al tema politico, al tema sociale. Cerchiamo di toccare molti più argomenti, anche perché bene o male siamo sempre comunque ispirate da tutto ciò che vediamo, da tutto ciò che viviamo, e cerchiamo comunque sempre di, come dire, fermarlo sopra di un foglio e cercare di descriverlo al meglio. Certo, e anche c'è una cosa da dire, Guazzi, che si pensa molte volte che la musica rap, l'hip hop, sia una cosa così semplice, banale, ma no, assolutamente, hip hop... no, guarda, questo è un errore che si fa adesso, ma perché probabilmente è una musica, diciamo così, nel mercato italiano ancora magari un po' sconosciuta, adesso sta prendendo sempre più piede, di questa cosa ne sono felicissima. Però una cosa che magari ci è capitata anche spesso a noi, che bene o male in tutti gli eventi abbiamo sempre suonato, magari anche in mezzo a gruppi rock, e nel momento in cui magari non vedi la batteria, la chitarra dietro. Si pensa che magari un genere va, c'è la base, ci scrivo due rime sopra e funziona, cioè in realtà non è così, perché tutta la musica che magari non si vede dal palco è fatta a computer, c'è comunque un lavorone dietro, sia a livello di strumentale sia a livello di testo, perché può sembrare semplice magari scrivere, però la scrittura è qualcosa che si impara mano a mano, ed è comunque, ci vuole comunque tantissima esperienza secondo me per arrivare a farla veramente bene, ed è un lavoro che sicuramente non si porce, non è che io domani posso dire ok, da domani faccio il rapper, perché tanto è una cosa semplice, cioè assolutamente no, è una cosa che si coltiva nel tempo, negli anni, con le esperienze, con le performance dal vivo, andando in studio, registrando, perché mano a mano comunque ti correggi sempre di più. E cosa ne pensi? Tu hai appena accennato adesso, qualche minuto fa ne hai parlato, cosa pensi di questa esplosione, perché è stata sdoganata, l'hip hop in Italia è stato finalmente sdoganato grazie a Fabi Fibra, e da Fabi Fibra poi le cose si sono sviluppate, si sono allargate. Ma guarda, io non posso che essere contenta di questa cosa, perché io ho sempre ascoltato rap, lo ascolto da più o meno 10 anni, uh-huh. E mi ricordo che quando comunque lo ascoltavo ce n'era veramente poco in giro, ne girava veramente poco, e comunque è sempre stata una scena che ha faticato ad uscire. Adesso però è una scena, a parere mio, molto valida. Adesso che si è comunque lanciato sul mercato, diciamo che comincia a vendere, comincia ad andare nei media, adesso addirittura anche nei talent, secondo me è comunque una cosa positiva, perché anche se magari il primo approccio sia a livello commerciale, magari con le prime cose che magari escono, di conseguenza quelli che sono veramente appassionati si cominciano ad appassionare, poi vanno a ritroso e riscoprono tutte le vere radici da cui parte, e quindi secondo me è una cosa sensazionale. Poi è un genere che secondo me si attiene tantissimo al giorno d'oggi, perché è comunque un genere che merita ascolto, dove ti devi fermare ad ascoltare. Adesso secondo me, in tempo di crisi, diciamo così, la gente è molto più intenta ad ascoltare, a fermarsi, a ragionare sulle cose, quindi è anche un genere che ti apre un mondo, perché parla, è molto più profondo rispetto ad altri, secondo me. Possiamo dire, Wazzi, ritornando un po' al genere musicale, definirlo l'hip hop, il rap, un semplice genere musicale è proprio riduttivo. Il rap è un lifestyle, uno stile di vita, da sempre rivoluzionario. Sì, no, vabbè, diciamo che il rap comunque è un genere, l'hip hop è tutta una cultura che si estende a quattro discipline tendenzialmente, questa cultura, vabbè, ovviamente nasce in America e non comprende solamente appunto il lato musicale, ma c'è anche il lato del ballo, il lato del DJ, il lato del writing, poi unito comunque alla musica. Ed è una cultura che appunto si espande ed è molto espansa, e nel momento in cui ti approcci a questo genere capisci che c'è proprio un mondo dietro, alla canzone rap c'è un mondo dietro, che spero che molte più persone riescano a scoprire man mano che si... Beh, noi siamo qua apposta, quasi, cosa dici? Ho detto, siamo qua apposta per quello. Infatti no, sono contenta, infatti, meno male. Senti, Wazzi, una domanda che mi aiuta poi a introdurre un po' la prossima canzone, un po' particolare. Cioè, vivere il rap significa, logicamente, sicuramente impegno sociale, motivazione, determinazione. Sì. Aiuta quindi a creare una forte personalità, questo? Sì, assolutamente, ma poi sì, ti aiuta, diciamo che la personalità forte di fondo secondo me devi già un po' avercela, devi già avere magari l'occhio un po' più critico rispetto ad altri, essere più attento nei riguardi di alcune cose, poi nel momento in cui hai questa base solida, comunque è un genere che sì, ti sprona a migliorare tanto, ti sprona ad osservare molto, a tentare di cogliere tutti i lati più particolari che magari, diciamo così, la gente, io adesso parlo di gente comune, poi magari, cioè, non voglio giudicare assolutamente nessuno, però è comunque un genere che ti forma man mano che lo fai, ti aiuta ad essere più attento, più accurato in tutto quello che dici e che scrivi, e ti condiziona anche a livello personale, proprio di vita, come hai detto tu. Diciamo che ti segna, un genere che comunque ti segna, certo. Cioè chi fa hip hop alla fine si vede, ecco. Quindi... Allora, adesso parliamo di un vostro brano che è contenuto nel vostro ultimo EP Legal. In pratica è stato il vostro cavallo di Troia, nel senso che è una canzone un po' particolare. Stiamo parlando di Muoviti, che è una canzone che a me piace tantissimo, perché è veramente rap. Cioè, c'è proprio una comunicazione molto, molto forte, una voce forte. Sì, no, assolutamente. A livello di testo ti dico di sì. Poi a livello di strumentale abbiamo infilato un po', appunto, di un po' di reggae, un po' di drums and bass. La strumentale se ne è occupata Liz, che è stata molto molto brava e appunto è riuscita a farmi questa base che si accoppiava perfettamente con quello che avevo scritto io. Certo. Sì, è un testo appunto che parla del Movimento 5 Stelle ed è, diciamo, tolto il fattore del Movimento 5 Stelle, è comunque una denuncia sociale al mondo politico. Certo. Niente, è nata praticamente come uno sfogo. Io già da tempo seguivo gli spettacoli di Grillo, mi ero appassionata già da prima comunque ai suoi show televisivi e teatrali. Niente, mano a mano, poi in quegli anni appunto era appena nato il movimento, perché la prima stesura, ti dico, è di 3 anni fa. Niente, l'avevo lasciato da parte, poi appunto ho sentito Elisa che gli ho chiesto: hai mica qualcosa di consono a questo testo? Mi fa: guarda, ci provo. Abbiamo unito le due cose e appunto è uscita Muoviti. Ecco, che è una canzone proprio, oltretutto, che esprime proprio la voce giovanile, di senso che vediamo proprio ormai esteso anche tutto il mondo. I giovani veramente vogliono far sentire giustamente la loro voce, e il rap ne rappresenta un suo punto di comunicazione. Pensate, se voi volete andare a vedere il video, vi consiglio, perché ce ne sono tanti altri poi di Le Gyal, vi consiglio di andare a vedere il video anche Muoviti, così avete modo di vedere anche all'opera, non solo in questo video ma in altre, il gruppo Le Gyal. Allora, Wazzi, ascoltiamoci questa bella interpretazione di Le Gyal che si chiama Muoviti. Dica, maestro. Le Gyal. Le Gyal. Hey, what's up, Zaza? Liz Production. Hey, muoviti, muoviti. Questa non è una favola, è un paese che si sgretola, dove ogni inganno ha la forma di una regola. Non pensare che si tratti di politica o di giorni grigi. Il potere ora è dei cittadini, perché ha perso la speranza e la pazienza. Conviene informarsi. Se no saranno votati. In un paese che ha negato e sepolto per ogni voto che non ci ho mai rappresentato. Perché ha studiato ed il futuro poi è stato tolto. Adesso è chi comanda che perderà posto, senza fidarmi più di nessuno. Voglio farmi prendere per il culo. Apro gli occhi e non vedo futuro, a parte che mandarvi tutti a fare in culo. Adesso sali in alto che ha digiuno. Sai chi per crederci ancora, ma non abbastanza per fermare ogni parola. Sono teste con di fianco il boia e dici muoviti, che di via d'uscita ne è rimasta una sola. In questa storia ci sono due coscienze, due storie diverse, ma una è una favola, l'altra è realtà. Per tutte le bugie, per tutte le follie che ancora schiacciano, è ora di reagire, guarda come si impauriscono. Il tuo potere adesso è dir di no, se ti fai più credere. Questo è il popolo ha potere. Basta chiudere gli occhi e fare finta di non vedere. Tu grida al comandante, SMS 346 2320 033. Blue Time. Blue Time. Blue Time. E 28 minuti primi, ancora qualcosa più di 30 minuti assieme alle Ghialle. Al telefono con noi c'è Wazzy. Esattamente. Wazzy, ci sei? Allora, musicalmente questo è un tema classico, è un po' non c'è molto variazione rispetto ai temi dell'hip hop. Questo è abbastanza classico, secondo me, musicalmente. È un po' colorato, ma non così diverso rispetto agli altri. Sì, non mo, ma dice a livello di strumentale. Sì, a livello di strumentale, non parlo di testo, a livello di strumentale è molto vicino allo schema classico. Sì, può avvicinarsi, magari non moltissimo, perché comunque c'è appunto tutto dentro, come ti ho spiegato prima, c'è appunto anche del reggae, e poi c'è questo suono intenso dubstep, che sarebbe il basso, che lo caratterizza un po'. Comunque sì, si allinea abbastanza anche a quello che può essere l'hip hop classico, anche se l'hip hop classico si estende più a lavorare molto sui campioni, musica campionata, magari jazz, soul, sì, eccetera, sì. Però delle attinenze magari che possono essere un pochettino legate di più comunque a questo genere, sì. Avete scritto in un'intervista una cosa molto bella: il primo impatto con il primo live ad Avignana, mi pare. Avignana, che era il pubblico, era pieno di entusiasmo. Com'è stata, quasi? Ma è stato bellissimo, perché comunque noi eravamo ancora molto inesperte ed era una serata organizzata tra l'altro in un bellissimo posto dove c'era questo palco grandissimo, ed eravamo appunto appena salite sul palco, la gente comunque, il primo impatto, avevamo fatto solamente 3 canzoni, però appunto con quelle 3 canzoni il pubblico, diciamo, ha reagito in maniera molto molto positiva, ha cominciato a comunque applaudire, ballare. Diciamo che siamo state apprezzate, il primo live è stato bellissimo perché siamo state apprezzate comunque da subito, non abbiamo sbagliato niente, siamo andate come dei treni, come si dice, appunto siamo rimaste tanto tanto soddisfatte, ci è rimasto proprio nel cuore, appunto sia perché è il primo sia perché comunque è andato benissimo. Eravate emozionate o no? Sì. Io ti dico, l'emozione prima dei live c'è sempre, poi comunque con l'esperienza che abbiamo fatto riesci a tenerla tanto sotto controllo, ma i primi mi ricordo che erano stati parecchio, eravamo tutte e tre comunque parecchio in tensione, però è una cosa che riusciamo tuttora a tenere sotto controllo e a gestirla, quindi va benissimo. Poi in 3 ci diamo comunque tanta forza, quindi va bene. Come si crea un pezzo rap? Come si crea? Allora, diciamo che ci sono principalmente, io tendo ad avere 2 modi. Il primo modo è quello dove parti con il testo, parti da un'idea e nel momento in cui c'è l'idea cominci a scrivere e a buttare giù quello che, diciamo, sono le strofe. Cioè io parto sempre comunque dalle strofe, poi i ritornelli vengono dopo, a meno per come ho lavorato finora, poi comunque magari non si sa mai che col crescere si potranno invertire le cose. Però comunque il primo stadio è appunto di buttare giù qualcosa di scritto, perché l'ispirazione per i testi a me non si sa mai quando mi viene, quindi posso essere magari, per dire che ne so, anche in treno, devo tirare fuori il quaderno e mettermi a scrivere, o magari scrivere addirittura sul cellulare anche mentre lavoro alle volte, però vabbè, non lo diciamo. Comunque niente. Appunto il primo impatto è quello che magari ti può venire dall'ispirazione del testo. Il secondo è appunto già avere comunque una base musicale, nel momento in cui l'ascolti hai comunque quella base, comunque ti ispira qualche cosa, cominci a pensare, guidata dalla musica tu scrivi le parole del testo. Principalmente io ho questi 2 modi qui, o partire dal testo o partire dalla base. Poi come nasce? L'arte alla fine nasce dal malessere, e molte cose, magari anche se magari le scriviamo in maniera ironica, nascono appunto da riflessioni, da esperienze vissute, per dire anche solo dal colore della giornata che ti metti lì a scrivere. Poi l'ispirazione è qualcosa di assolutamente inspiegabile per me, perché viene appunto così dal nulla. Alcune sono più progettate, altre sono più istintive, comunque in generale va più o meno così. Sì, la domanda non era, casuale, perché appunto era la curiosità di sapere un po' che si separava un po' dalla classica costruzione, non so, di una canzone pop. Sì. Hai detto prima una frase bellissima, nasce dal malessere, com'era la frase? Sì, sì, l'arte nasce dal malessere, l'arte nasce dal malessere. Frase che ho ripreso da qualche artista hip hop che ascolto da... E non soltanto hip hop, è stupenda. E non soltanto hip hop, molto spesso anche i musicisti rock. Comunque in generale. Esattamente, in generale. Ho letto, cara Wazzy, che come punto di riferimento, io conosco solo la Pina, gli altri due non le conosco, ma come punto di riferimento, come hip hop al femminile, citi la Pina. Sì, sì, la Pina mi ha segnato tantissimo, cioè proprio da quando ho iniziato a ascoltare rap, ovvero una decina, 10-11 anni fa. Mm-hmm. Niente, lei è stata una, diciamo che ce n'erano veramente poche di... Pochissime, possiamo dire. Di artiste femminili che rappavano all'epoca. Mm-hmm. Erano già pochi i maschi, quindi figuriamoci le donne. Niente, c'era appunto lei che era una, diciamo, delle più forti a parere mio. Che ha cominciato a farsi strada con gli OTR, eccetera. Ho cominciato ad ascoltare lei e ho preso tanto in considerazione tutto quello che scriveva, il modo in cui lo scriveva, e mi ha sempre ispirato tantissimo. Poi mi è sempre piaciuta parecchio e appunto io mi sono ispirata per lo più a lei. Poi le altre due, magari Ganja e Klo, si sono ispirate magari maggiormente a Posi Argento, certo, qualcosina di Subsista. E poi anche Carrie D a me ha influenzato parecchio. E comunque niente, abbiamo comunque tratto, diciamo, le nostre ispirazioni da, diciamo, le grandi che hanno fatto il passato, bene o male. Sì. Dobbiamo ricordare che la Pina non è soltanto una musicista hip hop, fa tante altre cose. Sì, comunque lavora in radio DJ. Esattamente, fa un sacco di cose. L'hip hop ha contribuito ad allargare i suoi orizzonti, chiaramente. Sì, no, lei è nata come artista rap. Esattamente. Sempre stimata, la stimo tuttora, perché comunque si è costruita una carriera ed è arrivata veramente in alto, secondo me. Sì, ma anche voi, state cominciando, però state cominciando, chiaramente. Sì, no, certo. E avete fatto già delle cose positive. Sta allargando l'audience, cosa dici, Wabi? Come? Si sta allargando l'audience. Sì, no, stiamo comunque anche girando parecchio a livello di live e concerti. Ci sta piacendo molto questa cosa, perché mano a mano ogni passo che ne facciamo poi ne scaturisce uno maggiore dopo. È come se fosse un'immensa gradinata, e man mano stiamo sempre salendo questi scalini e stiamo arrivando sempre più su. Comunque è una cosa che facciamo volentieri, anche se comunque abbiamo mille altri impegni, ma la musica non la mettiamo assolutamente mai da parte, quindi stiamo appunto salendo e ci fa tantissimo piacere questa cosa. Sì. Wazzy, chi è la writer, la Klo? La writer? Sì, la grafica, la grafica, chi le... Ah, la grafica è Federica Ganja, sì. Ma è una writer? No, writer no, però diciamo che è una writer del computer, diciamo così, dai. Ecco, sì. E poi Claudio invece appunto si occupa dei video, infatti. Muoviti, quelli che hai citato, hai detto anche tu prima, il video di Muoviti per esempio l'ha montato lei. Ecco, no, perché appunto anche i writer nell'hip hop hanno una figura un po'... particolare anche sì, i writer hanno sempre fatto parte di questa cultura, e diciamo così che si è espansa da New York per poi arrivare in tutto il mondo, e sono degli artisti a tutti gli effetti anche loro, perché fanno dei capolavori che sicuramente non sono da ignorare, che è una forma d'arte grandissima anche quella, sicuramente. Allora, parliamo adesso di un'altra canzone che è fuori da tutti e due gli EP e sì, che fa capire anche i passi che sta facendo le Gyal. Mm-hmm. Parliamo di Sogni nella polvere, Outing, sì, che è anche stata inserita come colonna sonora di un film. Vuoi dirlo te, Wazzy? Sì, sì, niente. Allora, questa canzone ha appunto preso parte di Outing, Fidanzati per sbaglio, che è un film che è uscito al cinema intorno al 23-24 marzo, se 28. Non con precisione la data. 28. 24. Non importa, io ho 28, comunque va bene anche 24. Ah, 28, beh, vedi, comunque, niente, ho preso parte della colonna sonora, e appunto, niente, ci ha contattato direttamente il regista di questo film, che si era entusiasmato comunque dagli altri lavori che avevamo fatto in precedenza. Che è Matteo Vicino. Matteo Vicino, esattamente, che se ci sta ascoltando lo saluto. Niente, ci ha contattato e ci ha appunto chiesto se volevamo partecipare alla colonna sonora, e ci ha dato un po' quelle che erano le dritte per, diciamo, il pezzo che voleva tirare fuori. Ci ha dato appunto un po' di dritte, la prima cosa che ci ha detto: guarda, ho bisogno di una canzone che rispecchi il lato più vero e, come dire, crudo del film. E niente, ci ha dato appunto qualche dritta, ci ha detto su cosa lavorare di più, su cosa meno, era uscita una delle prime bozze, noi abbiamo fatto sentire, è stato da subito entusiasta e niente, di là abbiamo rifinito il tutto fino a quando poi l'hanno inserita appunto nei titoli di coda di Outing. Che poi siete andate alla prima, e deve essere stata una soddisfazione enorme vedere una propria canzone come colonna sonora, tra l'altro sì, uno no, degli attori è anche Vaporidis. È stato molto emozionante, eravamo al cinema dove appunto siamo rimaste lì, abbiamo sentito la nostra voce che usciva dagli autoparlanti di un cinema ed è stato, sì, abbiamo festeggiato, eravamo molto, era contentissima, è stato un grande passo comunque, sì. Ecco, un film tra l'altro girato tra Monopoli e Polignano tra l'altro, ci torna anche questa fra un mese per la terza volta. Conoscete Polignano? Io di nome non ci sono mai. Se vi capita di andare in Puglia, tra i tanti posti della Puglia, fateci una visitina a Polignano, che è veramente stupenda. Avrete visto anche nel film, comunque. Sì, assolutamente. No, ma so che la Puglia è molto molto bella, quindi è una delle mete prossime, sicuramente quella. Allora ascoltiamoci questa bellissima canzone, Sogni nella polvere, Le Gialle. Mostri te stesso, sei fuori luogo. Tutti mostri come non sono. Tutti mostri sono là fuori spesso. Non lo sanno che a far paura sono loro. Ciò che conta è solo ogni bugia. Qui è rimasto poco spazio per la fantasia. Sconfitti da un'epidemia dove è proprio la fobia la più grande malattia. E la normalità che è diventata una follia. Qui muoiono soldi altri che diritti. Non hai opportunità, soltanto rischi. Il fine giustifica il tuo mezzo, ma l'onestà già persa. Conta solo arricchirsi, non credere in te stesso. Potresti impoverirti, loro decidono cos'è concesso. Non solo da deriderti e di credere, hai già smesso. L'intento è di dividerci, parli ma non ti sentono. Gettano ogni gesto e ci hanno detto cosa è bene, cosa è male, cosa amare, cosa odiare. Se sperare o non rischiare. Qui tu chiamalo sogno perché rimane tale. Puoi capire quanto fa male adattarsi, non poter uscire. Outing per respirare verità. Elimina bugie così grandi da farne la realtà. Ci hanno programmati tutti uguali, siamo hacker di noi stessi, meno superficiali. Con gli ideali in testa, non in tasca. Spendiamo i soldi, non i sogni che vogliamo e basta. Affrontare il vostro concetto di diverso, togliendoci di dosso un nome che non è un difetto. Effetto generazionale porta dignità. Mentre orgoglio e pregiudizio mangiano alla stessa tavola. Siamo clessidra di chi ha il nostro futuro incastrato tra le dita. E la tua vita scende ai compromessi per i sogni oppressi. Dipendere dagli altri senza credere in se stessi. Manipolazione, informazione. Trasmettono servizi di distrazione. Blue time. Io penso che queste ragazze stanno passando la prova, no? Ma decisamente penso che è un pezzo molto complesso da cantare, questo qua. Cosa dici? Ha decisamente complesso. Sei stata molto brava, siete state molto brave. Non è grazie, semplice tenere tra virgolette in questa maniera, perché è un pezzo difficile a mio parere. Sai pop finché si vuole, ma è difficile da cantare. Sì, sì, sì, no, infatti è stata, diciamo, che molto spinto, molto spinto anche musicalmente. Ci siamo appunto impegnate in questa strumentale che, diciamo, che è ancora diversa, era ancora diversa dal solito. E niente, abbiamo scritto insieme questa volta, perché appunto, come si sente dalle voci, abbiamo scritto più o meno una quartina testa, abbiamo scelto e scritto insieme appunto il testo che volevamo interpretare, e appunto il risultato è quello che avete sentito. Quando nasce il momento di scrivere assieme un testo, questo in questo caso? Ma perché? Allora, noi l'abbiamo voluto fare principalmente per il film, perché comunque abbiamo detto dobbiamo alla fine presentare un concetto molto forte, però cioè, tentare di comunque riassumerlo in due strofe. Nel momento in cui comunque ti metti a scrivere da sola tendi a, diciamo così, ad allungare ad allargare la cosa, mentre a farlo insieme abbiamo preso appunto i punti fondamentali di quello che voleva appunto il regista, ci siamo messe lì, abbiamo analizzato la questione, abbiamo scritto quelle le frasi e le quartine che per noi erano più incisive, le abbiamo messe giù ed è nata questa, diciamo, questa canzone un po' mischiata di voci delle Gialle. È interessante, secondo me è un'ottima colonna sonora fatta appositamente e con molta fatta bene, cioè non è semplice. Dai. Ma voi il regista vi ha dato il canovaccio prima? Sì, ci ha detto appunto quali potevano essere, appunto lui ci ha dato degli input, principalmente indirizzato su un punto preciso del film, dove è quello un pochettino più drastico, dove appunto spiega i disagi che abbiamo descritto noi nella canzone. E appunto ci ha dato questi punti di riferimento, ci siamo ispirati molto a questa scena che era interpretata tra l'altro da Giulia Michelini. E nulla, vedendo e rivedendo questa scena abbiamo estrapolato i concetti più grandi e più incisivi e li abbiamo buttati. Li avete sintetizzati molto bene, secondo me. È una possibilità, ci sarà altre possibilità di colonne sonore secondo te oppure no? Chi lo sa, comunque siamo rimasti in contatto comunque con il regista perché si è alla fine stretto anche un buon rapporto a livello personale. Quindi chi lo sa, poi in futuro tutto può essere, noi comunque siamo sempre pronte a tutto, a dare il meglio in tutto, quindi chi lo sa, può essere di sì, bene. Non si sa ancora. Allora, ragazzi, io vorrei fare ascoltare, abbiamo ancora 15 minuti, allora io direi, siccome voglio farle ascoltare tutte queste 5 canzoni che abbiamo programmato, io direi di fare ascoltare un motivo e poi fino alla chiusura facciamo un'altra chiacchierata e andiamo a chiudere con l'ultima canzone. Va benissimo. Okay? Allora, ci ascoltiamo un motivo, dimmi due parole su questa canzone. Allora, questa canzone è sempre a sfondo sociale e niente, abbiamo descritto appunto quelle che sono per noi le maggiori, diciamo così, il maggior malessere che possiamo vivere nel nostro tempo e niente, l'abbiamo resa, diciamo, cruda ma orecchiabile allo stesso tempo. La produzione è mia e niente, le voci sono sempre Wazzi, Chloe e Ganja. Allora la faccio presentare a te. Ok, allora, prossimo pezzo. Abbiamo un motivo delle Gialle. Tu non sei il tuo lavoro. Non sai la quantità di soldi che hai in banca. Non sai la macchina che guidi, né il contenuto del tuo portafoglio. Non sai i tuoi vestiti di marca. Sei la canticchiante danzante merda del mondo. Ho visto gente consumarsi per denaro, continuare a vivere dentro l'amaro chiaro. Questo è quello che ti puoi permettere, questo è quello che ti è stato dato, anche senza scegliere, colmato da sorrisi falsi, da bugie dipinte dai tuoi passi. E proprio quando speri che quei passi lasci, l'ipotesi anche solo di pensarci e realizzare che tu sei solo un numero nato per consumare. E brucia questa rabbia che è diventata cieca, ma non per la fiducia, la tua libertà chiusa in una gabbia, tenuta silenziosa solo perché sarà temuta ancora. Non basteranno le parole, non basterà ogni nota, la vera realtà è dipinta su una tela vuota, il solo scopo è prendere fino a ridurre in cenere la luce della tua speranza che si sta per spegnere. Dimmi se c'è. Dimmi se c'è ancora un motivo per credere in me, per credere in te. Dimmi se c'è ancora speranza. devi vuole schiavi. Noi a raschiare con le chiavi tavoli di legno per lasciare un solo segno che il tempo non cancelli. E limbo dei deboli schiacciati sotto i piedi. Tu devi stare sotto fino a fare il botto. Sbatti i pugni contro il muro e meno sei normale per il loro futuro. Sempre meno sicuro, io te lo giuro. Serve un solo coro, far sentire che è qui. Non abbiamo smesso di credere che è normale. È solo l'abitudine con essa a farci perdere ogni attitudine. Fermi nelle nostre culle a chiederci quale sia il tetto più alto per uscire al momento dell'impatto. Dimmi se c'è. Per intero, il mondo è sclero, io impazzisco più di loro. Parlano di crisi dall'alto, dei loro toni d'oro. Odio nero come petrolio, esce da ogni schermo. Mi prende, mi devasta, mi logora all'interno. Questo è l'inferno per chi cerca un po' di pace. Ci danno dosi d'alcol e droghe, dimmi ti piace. C'è chi si è reso, chi è diventato uno dei tanti. Un corpo senza peso, senza l'anima e diamanti. Perdiamo troppi istanti, persi per i contanti. Chi ha perso tutto, chi con tutto ha preso gli altri. Tocca costruirci il nostro mondo. Viviamo in testa, qui non c'è più posto. Io non ho un costo, né un'etichetta appesa addosso. Lascio in muto, come la vita che hanno imposto. Dimmi se c'è. Radio Veneto. SMS 346 2320 033. Blue Time. Blue Time. Blue Time. Sono veramente felicissimo, Maurizio, di averti portato questo, questo gruppo rap. Sì, in questo mondo particolare che è un po' a me sconosciuto, chiaramente, però bisogna sempre imparare le cose, bisogna entrare nell'argomento e a me è piaciuto decisamente. Poi, perché, beh, ripeto, cara Wazzy, il discorso, sì, musicale è differente dai soliti rap. Quello mi interessa, mi piace. Ecco, bene, grazie mille, grazie. Grazie. Ecco, vogliamo ricordare anche che voi avete collaborato anche con altri ragazzi che fanno musica rap. Sto parlando di Sebastiano Contrario, Leon, sì, Raiva. Sì, sì, sì, loro siamo comunque tanto amici anche a livello personale. Abbiamo fatto tanti live con loro. Io ho collaborato con appunto Sebastiano per un intero EP che uscirà tra pochissimo. Lo presentiamo appunto nel prossimo live, che è il 14 luglio a Ceva. E niente, io ho fatto questo EP, poi c'è stato un featuring nel loro album, poi di live ne abbiamo fatti parecchi insieme e ci siamo trovati da subito benissimo ed è stato, e continueremo comunque, spero, a collaborare con loro. Ecco, se sentite dei suoni stiamo provando, quasi un gruppo sta provando, poi finito l'intervista partiamo quello del live, però perché noi, sai, è tutto in movimento, il live è una bella cosa, cosa dici quasi? Sì, no, assolutamente, il live è, diciamo, la moneta che proprio ti forma a livello, cioè forma un artista, secondo me, la performance dal vivo, perché è una delle cose, diciamo, un pochettino più complicate, perché non c'è solamente il cantare bene, ma si tratta di affrontare per le prime volte una grande emozione, si tratta di saper intrattenere il pubblico, di dire le cose giuste, di come comportarsi a seconda di come il pubblico, ed è stata una cosa che noi abbiamo avuto la fortuna di farne parecchi, e abbiamo cantato di fronte a tanti, a molte persone molto diverse, cioè il pubblico comunque era tanto diverso in tutti i live che abbiamo fatto. E quindi siamo riuscite a cogliere e a fare esperienza anche a livello di questo motivo, cioè nel momento in cui ci siamo trovate davanti a un pubblico sapevamo come comportarci in un determinato momento, magari davanti a un altro sapevamo cosa dire, cosa fare, magari davanti ad un altro. Ecco, e visto che nel vostro tour avete toccato anche Jesolo e Verona, sì, la prossima volta vorrà dire che per tempo organizzeremo magari visto che siete in tour qua nel Veneto, una puntata qui in diretta a Blu Radio Veneto. Perché no, assolutamente, sì, per noi va benissimo, grazie. Guazzi, due o tre nomi di artisti rap emergenti. Ah, artisti oltre rap emergenti, oltre le Ghiare. Allora, ne ascolto tantissimi, allora, siccome li abbiamo nominati già prima, ti cito i Rap Cebano, che sono un gruppo appunto di Ceva, e fanno tipo una tipologia di rap che a me piace molto. Poi ce n'è un'altra che mi ha entusiasmato tantissimo assieme ad un'altra, perché collaborano insieme. Una è Marty Stone, che è di Firenze ed è una ragazza secondo me comunque veramente brava, che merita tantissimo, e che appunto collabora con MC Neil, con cui ho anche abbiamo fatto un pezzo insieme che è uscito pochissimo tempo fa, ed è tra l'altro partecipato a MTV Spit, ed è comunque, diciamo che se ti devo nominare pochi emergenti ti nomino loro tre, perché comunque mi hanno entusiasmato proprio tantissimo. È nato anche comunque un rapporto personale, siamo diventate tra virgolette così amiche, abbiamo collaborato appunto per i pezzi, mi hanno entusiasmato da subito. E poi comunque ce ne sono tantissimi altri che meritano molto, certo. Ed è proprio un mondo che sta emergendo, ne sono contenta, ma vorrei che ci fosse ancora di più, perché c'è tantissima gente brava che è appunto da conoscere assolutamente. Vorrà dire che le Ghialmi faranno da tramite e faremo ascoltare anche qualcos'altro di rap qui a Blu Radio Veneto. Sì. Volentierissimo, assolutamente. Un minuto per ricordare chi è stato importante in questo percorso, Guazzi. Ah, allora è stato importante, vabbè, sicuramente l'una in questo gruppo è stata importante per l'altra, quindi per me a livello personale mio sono state importanti comunque Federica e Claudia, perché diciamo che tutte e tre ci siamo date sempre forza nell'affrontare, nel fare sempre meglio le cose. Poi sicuramente le famiglie, perché senza di loro assolutamente non era possibile tutto questo. Per me ti dico è stata importante appunto questa musica in generale, perché è tanto tempo che l'ascolto, tanto tempo che scrivo, che la faccio, ed è appunto un genere che mi ha spronato come persona, mi ha reso anche una persona migliore, mi ha fatto diventare più determinata, incisiva, ha contribuito molto nella vita di tutti i giorni. Quindi principalmente queste tre cose, sì. Bene. Allora ti chiedo le ultime tre cose importanti: le Ghiali in tour, le prossime date, dei riferimenti web, ma soprattutto questi due EP si possono scaricare gratuitamente. Sì, allora guarda, per le prossime date, niente, appunto come ti ho detto prima, la prossima è il 14 luglio a Ceva. Poi per le prossime ce ne sono tantissime comunque in cantiere, e sicuramente altre date spunteranno fuori, appunto, per rimanere sempre aggiornati, perché sicuramente faremo qualche data ancora quest'estate, a settembre sicuramente partiremo con altre moltissime date. E, niente, per rimanere comunque sempre aggiornati c'è appunto la pagina Facebook, basta scrivere Legal Rap, scritto Legal Rap. E niente, dove lì scriviamo sempre tutto, teniamo tutto aggiornato. Poi abbiamo anche un canale YouTube dove potete vedere tutti i lavori che abbiamo fatto, ascoltare tutti gli EP che abbiamo fatto. E per scaricare gli EP basta semplicemente andare subito sotto il video nelle informazioni, dove c'è appunto scritto se vuoi scaricare l'EP è in free download, quindi gratuito. Clicchi su questo link e in due secondi ti appare una pagina, clicchi di nuovo e ti scarica tutto quanto. Ecco, ve lo consiglio vivamente di andare a vedere il canale YouTube, perché da lì poi trovate tutto, ma ci sono parecchi video interessanti delle Ghiali. Guazzi, Ceva dove si trova? Ceva è diciamo nel sud del Piemonte, quasi vicino alla Liguria, vicino Cuneo. Bene. Allora, Guazzi, noi abbiamo finito la nostra ora. Sì, ti ringraziamo di aver sdoganato l'hip hop qua dentro. Grazie, ma grazie a voi, guarda, è stata una grande opportunità, sono contentissima di aver preso parte al vostro programma, anzi vi ringrazio anche a nome delle altre due Ghiali assenti. E niente, è stato veramente un piacere, e spero che riesca a propagarsi sempre di più appunto questo genere che merita moltissimo. Voi sapete che siete storia qui a Blu Radio Veneto, no Maurizio? Sì, perché non è che trasmettiamo molto spesso il genere, però giustamente bisogna sondare, bisogna cercare di capire tutto e secondo noi grazie. Abbiamo capito molto, molte cose stasera, grazie a te. Bene, sono contentissima. Allora, grazie. Ci quindi saluti e ci dai un grandissimo abbraccio anche a Chloe e a Ganja, naturalmente. Assolutamente. E veramente grazie di cuore, grazie di essere state qui anche se come ospite telefonica però, qui a Blu Radio Veneto. Però l'idea, forse l'augurio di avere tutte e tre le protagoniste qui nei nostri studi per un live, chiaramente. Sì, sì, ma sicuramente ci mettiamo d'accordo e si potrà fare sicuramente, dai, ne siamo felici. Allora, l'ultima canzone è Rumore Rosa, due parole prima di chiudere? Sì, allora, niente, sempre comunque un pezzo di, diciamo così, denuncia sociale, perché denuncia appunto questa tipologia di donna che siamo di solito vedere nei media, quella magari che appare solamente grazie al lato fisico, mentre magari la parte, quella lì un pochettino, tra virgolette, intelligente, viene spesso tralasciata e quindi viene trasmessa un'immagine della donna che è solamente appunto estetica. Abbiamo denunciato appunto questo fatto descrivendo in maniera ironica questa situazione. Un grande, grande, grande abbraccio a Elle Gyal da tutta Blu Radio Veneto e dai suoi ascoltatori. A voi, grazie mille a voi. Ciao Wazzi, ciao. Ciao. Le chiale. E se non ne hai mai abbastanza, questo è il rumore che si alza. Mentre giro per le strade vedo ostacoli più fragili, indelebili, di donne labili che si confondono tra rossetti e sentimenti fragili, malattie incurabili, deboli e insopportabili. I miei concetti sono espressi solo con parole in rima. Adesso le borse che ho sono quelle della domenica mattina. Viene la fissa per Witton, tu consumi tacchi, io le canzoni dei Groupon. E sai qual è la novità? Che non me ne fotte di quello che dite. Tanto la pubblicità, se le fossette mentre ridi, direbbe che c'è l'ulite. E per me conta più un foglio di tutta quella carta messa in fila nel tuo portafoglio. E non seguo la moda, seguo me stessa. Quindi non mi basta la tua coscia liscia per farmi cambiare idea. Questo è il rumore che sulla gonna, se vuoi un oggetto trovati una bambola di gomma, e se mi vedi con rossetto e pre-